天的魅力演奏厅就到这里，感谢您的收听，欢迎关注。 快乐假期现在出发吧！ 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 踏着音乐的脚步轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀遨游音乐的海洋。有限古典音乐广播98.6兆赫，每天10点22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月，请欣赏帕瓦罗蒂1993年在他的家乡意大利摩德纳的大广场举行的《我心中的欢乐》演唱会。意大利女高音演唱家卢奇亚·福切里加盟，他们演绎了选自歌剧《蝴蝶夫人》、《图兰朵》、《江尼斯基基》、《艺术家的生涯》、《乡村骑士》、《卡门》、《友人弗里兹》、《风流寡妇》、微笑的大地、波基与贝斯、曼农莱斯科、茶花女等著名歌剧中的咏叹调，以及我的太阳、格拉纳达等意大利歌曲。下面请连续欣赏。

che gelida manina se la lasci riscaldar

fuori di qui dove tra Mi roverò, mi sognerò perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve t'accarezza, profumar di giovinezza mi fa tremare. La notte io sogno tremando di te, cuore incantesimo, il mio cuore sul tuo Sei tu bruna stella di lore, Vento, portami via con te.

bella bellezza di viola, e là fuggevo, fuggevo l'ora sinebria voluta di viarle i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio alla cuore ogni possendeva. Tra voi, tra voi saprò di vedere l'emonio d'amonio, tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacer, godiamo potere. 到歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有命运之力序曲、歌剧乔花女中的二重唱、离开巴黎的日子、唐帕斯奎莱先生中的咏叹调、姑娘的秋波、拉美摩尔的露西亚中的咏叹调、你张开了升天的双翼、爱之甘醇中的咏叹调、亲爱的酒、意大利女郎在阿尔及尔的序曲等，下面请连续欣赏。 tanto cara. Io son della fede, reso che sei. Da questo palpito, se dammi in mano, senza desistere, non potrei. Ma se quel dito, hai detto una volta, vuoi dire al cielo, vuoi tu. Scorda la panna, donna dorata, dammi perdona al genico. Chiede perdono, ma mi asso Dio, ma sulla morta mi rende. Non lo amo, devo l'angelo mio, ma più di vivermi potrà da te. Thank you. Avanzo d'una

mio, come esser deposente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia, già mi colmi il pene. Ma perché mai l'effetto non ne possi io vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva sì. O buono, o caro, un altro sorso. A qual di vena in vena, con calore scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma stessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito, e in me si risvegliò tutto ad un tratto. Allora, ti ami anche adesso, ma no, non ci appressiamo dei miei sospiri, non si stanchi però, tant'è domani adorarmi dovrà quel cor spietato. Non mi guarda neppure, come cambiato. Vuol farli indifferente, finora amor non sente. Come perdersi, dove sarà?